Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Voi direte, come hai capito che la donna di fronte a te è un'infermiera? Beh, diciamo, occhio clinico, occhio allenato, particolari che a me non sfuggono. Seconda domanda. Come hai capito che questa donna avrebbe avuto una storia fantastica da raccontare? Questo è il segreto del mestiere. Come ti è venuta la vocazione di fare l'infermiera? Ma allora, io quando avevo 12-13 anni, allora vabbè, proprio la prima ispirazione è stato un telefilm, uno dei primi telefilm sugli ospedali, General Hospital si chiamava, no? Quanti anni fa? Ma io penso quando, io ho 51 anni, quando penso quando avevo 12-13 anni, quindi una vita fa. Quindi qua parliamo, diciamo, di telefilm che andavano alla RAI, penso, no? Ma sì, io penso che ci fosse solo la RAI, sì, è uno dei primi telefilm. 40 anni fa, sì. Sì, era uno dei primi telefilm, secondo me, ambientati negli ospedali, dove c'era questo medico che viveva nel camper, aveva un camper nel parcheggio, poi c'era la vita ospedaliera, quindi questa cosa di salvare le vite, il rapporto con tra medici e infermieri, e così c'era un po' queste storie, no? E da lì ho iniziato a dire, ma però fare l'infermiera, poi è scattata una cosa in più, no? L'idea di fare l'infermiera proprio per andare ad aiutare qualcuno, e il mio sogno sarebbe stato andare in Africa, comunque in per essere una bambina avevi una vocazione profonda, di solito le bambine vogliono fare qualcos'altro. Però i nostri tempi non avevamo, nel senso... Vabbè, mica stai parlando della preistoria, o stai parlando... No, ho capito, però avevamo dei modelli un po' terra-terra, non so come dire. Fammi un esempio, no, perché la tua che famiglia era? Ma allora, semplice. Io la mia famiglia era una famiglia semplice, nel senso papà poliziotto e mamma sarta. Beh, però c'avevi già un esempio, diciamo, di altruismo, sì, rettitudine. Sì, secondo me sì. Rispetto poi degli altri. Sì, secondo me c'era un po' questa cosa. Mio papà purtroppo è morto quando io avevo 6 anni, no? Ah, quindi eri già senza papà quando è venuta questa idea? Sì. Poi tra l'altro c'è una coincidenza anche rispetto ai numeri. A me piace molto il discorso mi affascinano i numeri, non so perché, ma mi affascinano. E mio padre è morto a 52 anni e anche mia madre è morta a 52 anni, per cui io tu quanti anni hai? 52. Io ho 51 anni. Cioè ti manca un anno di vita, vuol dire, praticamente. Sì. Ma dai, sono terrorizzata perché i miei fratelli più grandi hanno già superato lo scoglio di 52, no? E io un po' questa cosa. Cioè resti solo te in famiglia di passare la barriera dei 52 anni? Sì, ho un po' questa, infatti ogni tanto. Quanti mesi ti mancano? Mi mancano meno di un anno, 6 mesi, a maggio li compio gli anni, quindi fai il conto, 5, 6, 7 mesi, sì. Li vivrai male questi mesi, no? No. Ma ci pensi? Ma ci penso, sì, però non so come dire, non è che sono paralizzata da questa cosa, la mia vita è però fammi capire una cosa, scusa, io capisco, ma tu hai quanti fratelli hai maggiori? Allora, un fratello e una sorella maggiore. Ecco, quando arrivavano a 50 anni e 8 mesi, tu dicevi, diceva, ecco, adesso è andata, uno in meno. Sì, come si dice in bergamasco, l'ho schiada, cioè l'ho schivata, no? Ma questa cosa gliel'hai detta loro? È una cosa comune, sì, solo per te? Ce la siamo detti, sì, ce la siamo detti tutti, sì, è una cosa un po' così. E loro che dicono? Tornando... Loro dicono, per noi ormai è fatta, adesso tocca a te. No, vabbè, ma infatti ogni tanto lo dico ai miei figli e loro si arrabbiano perché, vabbè, effettivamente forse da figlio sentirsi dire guarda che tua mamma l'anno prossimo... Ma mica hai detto, è una tua idea questa, non è la realtà, no, stiamo scherzandoci adesso. Ma certo. Non c'è nulla di reale in questo. Lo so, però ogni tanto, se lo dico in battuta ai miei figli, si irrigidiscono, sì, questa cosa, no? Quindi così. Quindi dicevamo che io, mio padre aveva questo lavoro di poliziotto, poi è morto. Mia madre per riuscire a mantenerci ha messo in atto quello che sapeva fare, nel senso che lei aveva fatto un corso di sarta e quindi ha iniziato a fare la sarta in casa. E quindi vabbè, io sono cresciuta. Beh, una brava mamma, è riuscita a levare tre figli, sì, da sola. È stata davvero brava, guarda. Sai che io ho in mente ancora il rumore, quel poco che stavo in casa, perché poi io ero sempre in giro. Vabbè. E dove andavi? Andavo principalmente all'oratorio. Una botta di vita, devo dire. Ma no, ma facevamo un sacco di cose all'oratorio, eravamo sempre in giro, in montagna piuttosto che in città. I tuoi fratelli invece, fratello e sorella, che facevano? Ma noi abbiamo sempre fatto delle vite un po' diverse, separate, ecco. Loro, vabbè, mio fratello stava con gli amici, mia sorella col fidanzato, aveva un fidanzato che... in età precoce, dai 14 anni, quindi. Ah, si è accasata subito, secondo me. L'ha sposato? No, sono lasciati. No, ah. No, sono lasciati, no. È l'unica che non si è sposata. E aveva cominciato presto, capito? Anche secondo me, ha iniziato presto, ha detto mamma mia. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E la mamma sempre a casa a cucire, voi uscivate, tu all'oratorio, lei a fare l'amore col fidanzato, l'altro a fare le passeggiate con gli amici. E con le ragazze probabilmente, vabbè, aveva tutto il suo giro di ragazze. Quindi tu eri, diciamo, la santa delle tre sorelle, perché una c'aveva il fidanzato, l'altro andava a donne e tu all'oratorio. E io all'oratorio, sì. Vabbè, quindi eri già partita con una, diciamo, una vocazione missionaria, no? Ma sai cosa? Poi io mi sono tenuta, io, allora, non che i miei fratelli non fossero bravi, assolutamente, però erano quelli che davano un pochino più di problemi in casa, no? Immaginati, insomma, avere tre figli. Facevano le cose normali, però, scusa, non è facevano niente di male. No, ma infatti quello che ti dicevo io, loro facevano le cose normali. Ero io che forse ero un po' più anormale, no? Perché no? Vabbè, sai, diciamo, no. Nel bergamasco è abbastanza normale, c'è una bella influenza pretesca, quindi andare all'oratorio fa parte, diciamo, dei costumi locali, non è una cosa così strana, no? No, è vero, però alla fine io ero sempre un po' incasellata nella brava ragazza, no? E quindi... ti pesava questo ruolo? Ma no, allora, a quel periodo no, perché io ci stavo dentro bene, no? Però è stato dopo che magari, non so, cioè... ero sempre in casa, no, ma tu sei brava, ma, cioè, a parte che ti ho detto, non è che gli altri non fossero bravi, no? Sì, ma quanto ti ha limitato, che ne so, nelle tue relazioni, nei primi amori, queste cose, tu eri la brava ragazza? Ma no, poi, sì, vabbè, oddio, il moroso ce l'ho, ho iniziato ad averlo un po' tardi, perché... stavi sempre in parrocchia, nessuno ci provava, pensavano che vuole farti suora, magari. Accasati, no? Pensavo, questa si fa suora, uno si... Gianluca, hai detto una cosa che mi vergognava dirlo, però ho avuto anche un po' l'idea di farmi suora. E perché vergogna? Che vergogna c'è? Beh, cioè, vedi nel quadro, guarda, io l'ho intuito mica per niente, perché io immagino la sorella che a 14 anni già gli dava sotto di brutto, quindi era un esempio che per te è doloroso. Il fratello che usciva, già immagino, faceva una vita, amici, donne, così. La mamma che cuciva, la sorellina piccola che deve fare? Giusto, la suora può fare, no? Ma no, ma a me affascinava, no, allora. Ti piaceva il mondo delle suore? A me affascinava il mondo, allora, mi affascinava l'ordine, che io non avevo. Ma l'ordine mica per forza le clarisse, le carmelitane, le francescane. Bravo. L'ordine è mettere a posto casa, poi. No, mi affascinava l'idea, perché ritornando un po' al nucleo familiare, mia mamma faceva la sua vita, cuciva, c'era sempre questo pedale della... Quella macchina pedale, la Singer a pedale. Sì, bravissima. Quelle lì erano, no? Tutta di ferro sotto. No, non proprio quella, il modello successivo. E non so, ma io credo che poi, tra l'altro, per ritornare al discorso della morte, poi lei è morta quando io avevo 18 anni, no? Quindi vabbè, poi io mi sono ritrovata da sola ed ero un po' affascinata da questa idea di... E siete rimasti orfani molto giovani, diciamo, no? Sì. Sarà stato un momento difficile, penso, in famiglia, no? Allora, difficile, però vissuto comunque con tanti affetti vicini. Tu quanti anni avevi quando è morta la mamma? La mamma avevo 18 anni. I fratelli quanto? Fratello e sorella? La sorella, allora, 20 e il fratello 21. Ah beh, ma erate vicinissimi, io pensavo chissà quanto più grandi. No. Quasi coetanei, uno ogni due anni, come accadeva una volta. Sì, una tra il fratello e la sorella c'era. Fai un figlio a latte e poi ne fai un altro, poi fai un figlio a latte e poi ne fai un altro. È così funzionava. Sì. E quindi vabbè, quindi poi è morta. Io avevo un po' questa idea di... Ho provato andare in clausura 3-4 giorni, ma poi sono uscita disperata. No, no questa me la devi raccontare. No. Ma quando hai provato? Quando era morta già la mamma, che eri sola? No, ho provato, mettiamo verso i 16 anni, adesso non mi ricordo la data. E che vita facevi? No? Fammi capire, bravissima ragazza, senza nessun fidanzato, amori, pensieri, niente. No, ma sono stata 3-4 giorni, perché ho detto, ma proviamo a... Ma come si comincia? A chi si dice quando uno vuole andare in clausura? Ma avevo parlato col parroco e gli avevo detto, guarda, mi piacerebbe... Ma no, non è che volevo andare in clausura, ho detto, mi piacerebbe fare l'esperienza di clausura, ma giusto. Ma poi partivi proprio pesante, no? Ci sono tante suore, anche suore che fanno tante cose, proprio quelle che stanno in clausura. Mi ero informata, quelle che mi piacevano di più erano le francescane, perché a me piaceva. E mica sono in clausura, le francescane sono sempre in giro. Vanno in missione, camminano, c'hanno. Bravo, vedi, i sanda. Sono di Perugia, brava. Sono. Ecco, bravo. Figurati, le vedevo tutto il giorno. Frate e monache erano sempre, sempre insieme. Io ero partita con le francescane, però ho detto, ma proviamo anche a vedere l'ordine delle clarisse. Ma di le clarisse proprio, chiusa dentro. Sì? Chiusa dentro. E tu sei andata lì? Come sei andata? Ma cosa ti ha riportata? Fammi capire. Allora, io sono andata lì, avevo portato un libro da leggere. Vestiti niente, tu perché lì bisogna mettersi, sì, sai. L'ho portata al pigiama e un cambio, perché l'idea era di stare lì 3-4 giorni. E loro però come ti hanno accolto? Le suore loro felicissime, parte che le clarisse qua di Bergamo sono molto, tra virgolette, pur essendo in clausura, sono aperte, nel senso che comunque puoi andare lì, c'è la messa, loro sono dietro, dietro la gara, dietro la grata, sì, diciamo, sì. Sì. Beh, aperte. Loro contente. Pensa se erano chiuse, cioè che, meno di così che devi fare. Vabbè, tu sei andata lì, hai bussato, hai detto, sorella, c'è una bambina che vuole provare. Sì, vieni, io ho andato tipo, una celletta, dove... però ero separata da loro, quindi ero proprio da sola, loro più o meno vivono in comunità, non la loro cella. E te eri chiusa dentro in questa cellettina? Ero lì, la cosa che mi piaceva di più è che mi portavano da mangiare attraverso quella ruota. No? Ah, perché tu non potevi andare insieme a loro, no? No. Ma era una donna, le donne non possono entrare dentro. Io pensavo le donne potessero. No, magari adesso sì, non lo so, però ecco. Ah, quindi stavi, diciamo, separata dalla vita delle suore, stavi nella tua celletta. Sì. Ma come facevi a partecipare alla vita monacale, scusa? No, potevo partecipare alle preghiere. Ma da dietro la grata, sempre? Loro la messa. Sì, non potevo star con loro, io non le ho mai... Cosa c'era? Tipo una specie di inferriata costante che tu dalla tua parte potevi vedere tutto e non toccare? Sì, Sì, praticamente io ero dalla parte dove dei fedeli, diciamo, però le sentivo, c'erano la mattina le lodi, poi non mi ricordo. Vabbè, che facevi durante il giorno, a parte le preghiere? Da sola in una... E poi c'era un giardinetto, stavo nel giardinetto. E dopo i 3 giorni ho detto no, non è la vita che fa. Cioè, non era proprio la cosa, no? No, no. Sono rimaste male le suore che te ne andavi? Ma no, ma io non è che ci dovevo restare. Beh, già, uno ci fa sempre un pensiero, poi c'è una viene 3 giorni dentro. Hanno fatto secondo me un po' il tifo, però... Perché ti dicevano dai rimani, ti immagini che bello. No, mi hanno detto mi raccomando, facci sapere, ci sono degli incontri vocazionali, perché poi io, non è che tu fai così, cioè ci sono tutti degli incontri vocazionali, ero preparatissima, avevo fatto gli incontri vocazionali anche dalle francescane. Ah, quindi hai fatto vari colloqui. Sì, però poi ho capito che... Le francescane invece cosa ti hanno detto? Com'è funzionato lì? Ma no, niente, ero andata praticamente a degli incontri, non ho fatto esperienza da loro, ero solo andata a degli incontri vocazionali, si andava la domenica... E com'è una cosa tipo marketing, ti dicono guarda quanto è bello, fai questo, fai quell'altro... Ma un po' come gli open day di adesso della scuola, secondo me. No, però a parte quello, erano un po' degli incontri in cui si parlava così della fede, dell'esperienza. Sì, ma tu che domande si facevano? Italiana. Quanto mi tocca star dentro, che devo fare, che tempo libero, quanto si mangia, che si no, così? Non lo no, so, io farei queste domande era, qua. No, era più... Però con le francescane c'avevi la libera uscita, potevi uscire, non era come quello, le clarisse. Sì, no, poi sono più... Un più aperto, più no. Però alla fine niente, alla fine ho deciso di fare. Però scusa, aspetta un attimo, però è interessante questa. Tu prima hai fatto il colloquio con le francescane. Sì. E non, per te erano troppo poco suore, perché dopo sei andata alle clarisse, cioè allora non ti bastava, diciamo, questa cosa, diciamo, immersa comunque nella società. Volevi proprio un ordine monastico classico, di recluse. No, volevo avere una rosa di scelta, hai capito? Però poi mi sono detta, dopo la seconda possibilità, ho detto no, nel senso bello, le ammiro, ma non fa per me, in effetti non... Ma ti sei vista con tutto il vestito, il velo coperto? Infatti, no. Quello non ti andava? Forse proprio andando da loro mi sono resa conto che quello che cercavo invece era una famiglia. Però sei stata coraggiosa, che ci hai provato, perché così sì, sei tolta il dubbio, no? Sì, anche secondo me poi mi sono tolta il dubbio. Poi comunque sono esperienze che ti arricchiscono. Quindi uscita da Clarisse, tutta vita, hai detto basta, da oggi tutta vita. Sì. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Com'è cambiata la tua vita poi? E poi vabbè, era successo, tra l'altro poi mia mamma era stata, e ti era anche un po' preoccupata mia mamma, ti spiego perché, poi cambiamo... No, è la parte più interessante che cambiamo, lo sapevo. Perché quando io ho iniziato ad andare a questi incontri, chiamiamoli incontri vocazionali, mia mamma era già malata. E la sua paura era che io facessi come un voto, no? Quindi che tu diciamo, sì, padre eterno, sì, se salvi mia madre mi farò suora, sì, pensava questo. Sì. Perché mia mamma secondo me aveva un'idea di me troppo, cioè nel senso era fin troppo... Però scusami, non voglio dire, ma un pochino, l'idea la davi, scusa, ragazza di parrocchia, va a fare i corsi preparatori, no, l'open day dalle francescane, poi va dalle clarisse, uno dice questa è una piccola suorina, già è pronta per questo. Ma poi... Magari di quelle ragazze, tipo ragazze delle suore, capito, andavi con i calzettoni, con le scarpe da ginnastica, gonne fino alle caviglie, treccine... Così. Sono stata anche scoraggiata dai miei amici perché mi dicevano, guarda Giulia, già infermiera dici vabbè, ma infermiera e suora è il top, cioè veramente, nel senso che di solito le suore infermiere sono tremendissime, no? Per cui mi scoraggiavano, dicevano no, ti prego, non andare a fare l'infermiera e anche suora, perché poi non ti reggiamo noi. Beh sì, qualche, quindi... un margine di ragione ce l'avevano pure loro. e anche perché i nostri... Ma quindi ne parlavi con tutti? Tutti sapevano il tuo giro di amici che tu volevi fare la suora? Ma sì, sì, sì, lo sapevano, sì, sì, sì. Questa cosa è durata 2 anni, poi basta, poi... Ma ti, già ti chiamavano, suor Giulia così per prenderti in giro? No. Erano buoni, dai. Erano buoni, sì, dai. Mi avevano solo un po' scoraggiato. E la mamma ti ha detto, dai, non fare voto, che io guarisca. No, infatti mi aveva detto non farlo, poi vabbè, gli ho detto no, mamma. Comunque è una cosa che se scelgo è al di là di tutto. Poi invece comunque non l'ho scelto, comunque la mia mamma è morta. Poverina, sì. E quindi sì, le cose sono... Senti, ma il prete invece è rimasto un po' deluso, ti ha detto figliuola, mi è deluso. Ma sai, loro ci sperano sempre. Ci provano sempre. Che sì. Nasca qualche vocazione, però... Certo, bisogna far capire comunque che vivendo a Bergamo è tutta un'altra cosa, lì si respira un'area diversa. Bergamo è una città che praticamente è tutto un convento, è una città tutta di preti, Bergamo più o meno, no? Le cose più belle sono tutti preti, quindi era nell'humus cittadino più o meno, capito? Non è che in un'altra città sembra strano, ma è normale lì, no? Sì, adesso io sono un po' fuori dagli ambienti, diciamo, parrocchiali, così, però sai, ai nostri tempi davvero era proprio, c'era proprio tantissimi incontri, proprio come chiamavo prima, incontri vocazionali, e ti dico che sfornavano decine e decine di preti all'anno. Ma dove sono finiti poi tutti questi preti? Che c'è una crisi terribile oggi. Ma vi vengono tutti dal terzo mondo. Sono invecchiati. Forse sono spretati anche i preti, qualcuno spretato, qualcuno invecchiato. Ma invecchiato, se la tua generazione sono cinquantenni, sono giovani gagliardi, dai. No. Sì, no, però dico, sono invecchiati, sì, nel senso dove sono finiti, sono in qualche parrocchia. Ecco, come hai fatto a ricominciare una vita, fra virgolette, normale? Cioè, cercarti un fidanzato, adesso non so, tu hai famiglia adesso? Sì, sì, sì. Quindi hai trovato un marito, Ma io comunque avevo una vita normale. Anche prima. È normale, che vuol dire? Calma, se vuoi fare la suora rimanevi, diciamo... Ma no, era tutto aperto, nel senso aperto. Come era tutto aperto? Nel senso, era aperta ogni venienza. Se avessi ma come facevi a conciliare le due cose? Scusa, suora vuol dire voto di castità perenne, scusa, come potevi pensare altre cose, no? Ma infatti, ma io ero solo che mi stavo informando, stavo valutando la mia vocazione. Certi passi non si torna più indietro poi. No, certo. Prima ti informavi e poi dopo vedi scambiare idea. Infatti il passo non l'ho fatto, fortunatamente. Però dopo l'hai fatto, grande passo. Quanto tempo dopo? L'uscita dalla vocazione, quando hai trovato un fidanzato vero? Allora, poi ho trovato qualche fidanzato, poi... Sì, ma sempre così, un po' la parrocchia, passeggiatine, bacettini, cose così. Dai, no, vabbè, fidanzati seri, dai, non mi fare... No, non voglio entrare nei particolari, però infatti, no, rimanete sempre nell'ambito di bravi ragazzi, ma diciamo... Ma no, normali, no, dai, adesso, normale è un termine... Normali. Vabbè, normale. Normale. Però capisci che fra voler fare la suora e entrare nell'ambito di avere una vita relazionale, sentimentale nella norma, quindi uscire con un ragazzo, fare delle esperienze amorose con questo ragazzo, hai cambiato completamente l'ottica. Sì, certo, è ovvio che avevo cambiato l'ottica. Penso a loro. Avevo una fidanzata quasi una suora. Deve essere un'esperienza fantastica. Io non lo dicevo questa cosa. Ma non si capiva, non si capiva più, dice. No, non si capiva. Beh, sei cambiata anche, diciamo, dal punto di vista di come ti vestivi, perché immagino che in tutta questa fase mi sembra di vederti la brava ragazza delle suore, come l'ho descritta prima. Poi se devi metterti, diciamo, in un ambito di normale ricerca di un compagno, avrà cambiato, avrai cominciato a porti in maniera diversa, no? Ma alla fine, allora, come ero prima... Scusa, ma sono curioso, perché questa metamorfosi è interessante per chi non abita in quelle zone e non sa che è una prassi abbastanza diffusa. Mi piacerebbe a me avere un'amica che vuole fare la suora, cioè stare a fare le domande tutto il giorno. Ma no, allora io mi vestivo normale, con i jeans, i pantaloni, cioè sono sempre stata una molto sportiva prima e anche dopo, quindi... Non sei mai stata una vamp, ecco questo? No, assolutamente, sono stata molto semplice, molto sportiva, ecco, mi viene a dire... sportiva. Ecco, ecco, come hai cominciato a studiare per fare l'infermiera? Avevi fatto una scuola, no? Allora, per studiare per fare l'infermiera ho iniziato, ho fatto il triennio di un istituto tecnico e poi ho iniziato a fare 3 anni di scuola per infermiere. E una bella scuola, nel senso una scuola dove la mattina andavi a lavorare, il pomeriggio studiavi, quindi con tanto tirocinio e da subito, ecco, ti approcci un po' al mondo della sofferenza. Diciamo che erano anche anni, un po' è una professione questa in cui c'è bisogno di persone, ma erano anche anni in cui non c'era l'angoscia di mio che lavoro farò, non troverò lavoro. Tu sapevi che uscendo da questa scuola avresti lavorato, almeno potevi, sì. Quello lo sapevi. Sì, sì. Infatti ti dico che dopo il diploma praticamente ho dovuto scrivere una lettera in cui ero disponibile a iniziare a lavorare da settembre, perché loro ti avrebbero assunto dal giorno successivo. Vabbè, perché pensa, c'era proprio oggi una sembra, capito, di personale. Sembra una cosa banale, ma oggi questa è una cosa che un obiettivo che pochissimi, a cui pochissimi possono ambire. Erano anni in cui ancora, diciamo, erano aperte certe maglie. E hai cominciato a lavorare, che è un lavoro impegnativo, difficile, di grande sacrificio, è chiaro, però sei trovata, diciamo, in un iter di vita più che regolare. Hai fatto i tuoi studi, hai cominciato a lavorare, ti sei tolta tutte i dubbi sul fatto che fosse quella la strada giusta, perché hai fatto i colloqui con le monache, hai capito. Sì. Quindi hai messo su famiglia poi. Eh sì, ho iniziato a lavorare e mi è sempre piaciuto tantissimo il mio lavoro, ho lavorato in diversi ambiti e poi mi sono sposata e ho avuto 2 figli, quindi anche il conciliare la vita lavorativa con la vita familiare non è stato semplice, però diciamo che ce l'ho fatta, ecco. Tuo marito cosa fa? Allora, il mio ex marito. Ha lasciato il marito? Sì. Ma vivi nel peccato allora, scusa? Sì, vivo nel peccato. E questo, come fai a sopravvivere a questa cosa? Ti vedesse la madre superiore delle Clarisse, cosa direbbe? No, sarebbe comprensibile. Mica tanto, figliuola. No. Vabbè, non è andata, sai, oggi nella media è così. Non è andata come volevi. Poi i figli ormai li hai cresciuti. Bravo, ti dico non è andata come volevo, perché poi l'idea di aver perso i genitori presto, così mi aveva lasciato proprio molto il desiderio della famiglia. Ma mi sembra normale. E quindi io avevo investito proprio tanto, tanto sulla famiglia, su comunque i figli, così. E poi è successo che è stata un'altra persona che si è messa di mezzo. Ma e quindi una persona di mezzo verso di te o verso di lui? Verso di lui. Ah, beh, ha trovato un'altra donna, tanto. Sì, sì. E succede, sì, sì. Carami. Succede. L'hai scoperto o te l'ha detto? Allora, me l'ha detto quando io avevo scoperto già, perché io sono un po' un segugio. Da cosa te ne sei accorta? Ti accorgi dagli atteggiamenti, ti accorgi che non c'è con la testa. Che improvvisamente si lava tanto, si cambia spesso, si profuma. E quindi va bene, me ne sono accorta. Sono stata molto male. Bene, non nel si senso sta. Che sì, gliel'hai detto, è stato un chiarimento, cioè, dimmi tu, hai un'altra donna, così gliel'hai detto. Sì, alla fine no, mi dice lui ti devo parlare e poi mi dice questa cosa, gli ho detto guarda, io l'avevo già capito. Ma era una cosa seria, diciamo, non era nel senso che era un'alternativa alla donna che aveva, la vedeva così, non era uno sfizio. Lui sì, secondo lui sì, era un'alternativa, al che poi alla fine ho deciso, però alla fine ho deciso io. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Non doveva innamorarsi di un'altra, tanto valeva tenersi la moglie, perché adesso che fine ha fatto questa donna? Non c'è più. Vedi, così ti ritrovi una mano avanti e una dietro, alla fine no. Sì, non c'è più, io a distanza di anni credo di essere anche migliorata come persona, nel senso che la separazione mi ha mi ha migliorato. Mi Beh, è un'altra fase della tua vita, fatto... un'altra fase sì, della tua vita. È vero. I figli quanti anni hanno? Mi sento orgogliosa. Quanti anni hanno i figli? I figli hanno 15 e 19 anni. Beh, ancora c'è un pochino da starci dietro, non è sì, che sono... Sì, però ecco, mi sento... Però vedi che hai ricreato più o meno la stessa situazione di te quando avevi più o meno la loro età, perché c'è una mamma che lavora con due figli in casa, più o meno la stessa cosa. Ma sai che infatti, sai che ti dicevo che mi affascinano i numeri? E qual è la coincidenza adesso? La coincidenza è che mia madre è rimasta vedova a 40 anni e io mi sono separata a 40 anni. Poi lui è vivo ancora? Sì, lui è vivo ancora, sì. Vabbè, come fosse morto per te però. Però ecco, che altra coincidenza c'è? Fammi capire, potrebbe succedere, a parte quella di fra un anno, ci risentiremo fra 6 mesi, così mi racconterai com'è andato il compleanno. Ma non lo so, per ora la coincidenza che mi preoccupa di più è questa, poi le altre adesso non ne vedo. Ma non c'è una maniera per esorcizzarla, allontanarla? Non lo so, dimmi tu se conosci qualche... No, c'è... Qualche rito, vada la madre superiore delle Clarisse, che ti devo dire, più di loro non lo so. Ma ci pensi davvero o stai scherzando? Esageri. No, allora, ci penso, ma non è che sono preoccupata, ci penso. Dico, fatti dei check-up continui, stai bene in salute? Sì, sto bene. No. Sì, certo, tu hai anche passato a Bergamo a fare l'infermiera di questi tempi, avrai visto cose che noi umani non ci immaginiamo, o sbaglio? Sì. È una ferita un po' aperta, ecco, che mi... me ne rendo conto. È stato un periodo forte, ecco, io ti dico però che in quel frangente sono stata, cioè, sono contenta che avevo una professione tale da poter essere d'aiuto, ecco. Però vedi, l'occasione che tu cercavi sin da bambina di fare qualcosa per gli altri, che hai declinato in varie maniere, pensando a fare degli altri, potevi pregare per gli altri, andare in missione. Poi alla fine il caso, il fatto, le circostanze, i numeri, poi tu lo vedi come vuoi, te l'ha dato, sei trovata nel punto focale di un momento difficilissimo per tutto il mondo nel nostro paese. Stavi al Bergamo a fare l'infermiera in tempo di Covid. Non esiste una prima linea più rischiosa di questa, e tu l'hai passata. E questa cosa, ti dico, mi ha dato tantissima energia, è stato un momento forte vissuto. Io mi ricordo che andavo a lavorare, io ho l'ospedale qua vicino, e nel tragitto in cui quei 10 minuti di macchina spesso piangevo, perché dicevo io non so se ce la faccio, no? E poi arrivavo là e non so, arrivava l'adrenalina, arrivava questo qualcosa dove tu eri lì e facevi il tuo lavoro, dare, no? Certo, non siamo riusciti a dare sufficiente. Avete fatto quello che umanamente si può fare, questo nella migliore delle maniere. C'è qualcosa che ti consola però nella vita? Dammi fra un po', io devo scendere, ci lasciamo, dammi un po' di speranza. C'hai un amore, qualcuno ti sta vicino? Sì, ma io sono felice. Ah, ecco, questo almeno. Ho un amore. E questo sono contento, vedi. Sì, poi posso dirti un'altra coincidenza che mi piace tantissimo. Sì, no? Aspetta, tocco ferro, dimmi. No, va bene. Allora, dovremmo fare un viaggio più lungo perché ho un sacco di cose da raccontare. Beh, ci si ritrova, sai. Io ripasso, non ti preoccupare. Magari ripasso. Sì, perché no, dimmi solo quest'ultima coincidenza, questa mi interessa. Ultima coincidenza. Allora, mio padre veniva da un paesino piccolissimo della Puglia. E un giorno in ospedale ho assistito una persona che veniva da un paesino adiacente, proprio attaccato, no? Sì. E allora vado, vedo da dove arriva, vado lì e gli ho detto: cavolo, sa che io, mio papà era di quel paese, mi chiede come si chiama suo papà, e quando gli dico nome e cognome mi dice: ma io lo conoscevo. No, è possibile. Quindi sì, giuro. E quello è il tuo fidanzato, quest'uomo? Aspetta. Niente, quindi poi ci siamo conosciuti e quando c'era lui, che ogni tanto veniva ricoverato, ci facevamo delle belle chiacchierate, perché aveva conosciuto anche mia mamma. Ah, quindi è proprio era fidanzata con mio papà. Quasi amico di famiglia. Sì, quasi amico, ecco, poi è un romanzo persi, questo, però, bellissimo. Sì. E poi lui ha fatto nel mio reparto un intervento molto complesso, dove è stato degente per molto tempo, e veniva ad assisterlo il figlio, un bel ragazzo, molto molto carino. E tu ti sei invaghita del figlio? E io mi sono invaghita, mi ero già separata, sono invaghita del figlio e l'hai sedotto? Scopro che si stava separando. Ah, quindi nella tua stessa situazione? Nella mia stessa situazione, quindi... E i numeri corrispondevano, cioè con una donna che magari era nata lo stesso giorno? No. Allora, è con una donna che si chiama come me. Ah, pensate, vedi, c'è una coincidenza. E la donna... Sì. è dello stesso paese del mio ex marito. Ah, vedi, un quadrilatero di coincidenze. Una cosa, sì. Lo stesso paese ha generato un uomo che ti ha posseduta e poi ti ha tradita, ma allo stesso tempo ha generato una donna che ha posseduto e ha tradito un altro uomo che si è ricongiunto con te e è diventato il tuo amore. Sì. Questa è cabala pura. Ma vero, io sono affascinata, non capisco il significato, ma mi affascinano tutte queste coincidenze. Guarda, allora, e quindi le teorie sono che esistono le coincidenze significative perché in realtà tutta la realtà è collegata da delle connessioni. Ogni tanto qualcuna individuiamo e ci sembra chissà che, ma in realtà tutto non ha nemmeno probabilmente, c'è probabilmente un nesso anche nel fatto che tu hai incontrato me, parliamo di queste cose, l'ora ci siamo incontrati, l'ora che la gente ti riascolterà, l'ora in cui ti riascolterà il tuo ex marito, in cui riascolterà l'ex moglie, il tuo nuovo fidanzato e via dicendo. Tutto questo farà scaturire tutto un insieme di numeri che però mi racconterai la prossima volta quando ci incontriamo. Intanto ci risentiamo presto e ci risentiamo. Mandami l'avviso del tuo avvenuto compleanno, così sto tranquillo. Va bene. In bocca al lupo, ciao, buon viaggio, a presto. Ciao. Si avvisano i signori passeggeri che il treno va ripartirà sabato prossimo alle 15 dalla stazione di Radio 24.